Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Nulla di fatto sui tassi, ma questo era ampiamente atteso. La riunione di oggi della Banca Centrale Europea, in cui Mario Draghi ha detto in sostanza l'inflazione resterà sopra il 2% nei prossimi mesi, poi ci attendiamo un calo, la ripresa sarà molto debole e molto graduale nel 2012, anche se vi sono segni di stabilizzazione, ma restano i rischi. Un Draghi prudente, non così pessimista come alcuni potevano attendersi. L'intervento della Banca Centrale Europea, nonché il vertice europeo a Bruxelles, si giocano anche sul fronte greco. Qui ormai la Grecia sta diventando non più che una tragedia, un tormentone, perché da quello che si è capito il governo greco avrebbe annunciato infatti ufficialmente di aver raggiunto un accordo generale tra i partiti politici sulle misure richieste da Unione Europea e Fondo Monetario, vi arriveremo tra pochissimo, in cambio di un nuovo pacchetto di aiuti. La riunione straordinaria è prevista alle 18, però anche su questo la certezza non si ha, visto che molte volte si dava per certo l'accordo, mentre poi è saltato. Io ricordo che la richiesta di Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Commissione Europea è un taglio dei salari minimi del 20%, taglio delle pensioni complementari, eliminazioni di tredicesime e quattordicesime anche nel settore privato e poi riduzione dei dipendenti pubblici, 150.000 in meno entro 2015. Ieri ha annunciato un taglio di 15.000 statali, in aggiunta privatizzazioni per quasi 50 miliardi di euro. Questo per permettere che l'Europa stacchi, diciamo, l'assegno che serve alla Grecia poi per rifinanziare un debito che scade il 10 di marzo, ma che va rifinanziato adesso. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo di Banca Centrale Europea, di Grecia, degli Stati Uniti, perché inizia tra pochissimo la prima tappa ufficiale, poi nel pomeriggio ora americana vi sarà l'incontro con Barack Obama del Presidente del Consiglio Mario Monti in visita appunto negli Stati Uniti. Vedremo quello che cerchiamo di capire, anche che quali garanzie Monti chiederà ad Obama. Devo dire, l'apprezzamento del presidente americano per Monti è cosa nota, anche oggi intervista sulla stampa di Torino in merito a questo tema. E poi parleremo anche del mercato immobiliare, partendo da una vicenda di borsa. Il titolo Gabetti, l'abbiamo commentato in questi giorni, ha fatto un più 125% nelle ultime settimane, dopo oggi perde il 3,76 dopo aver toccato i minimi storici, ma sarà l'occasione, visto che ha annunciato il gruppo un aumento di capitale, una ristrutturazione, per ragionare del settore immobiliare italiano, di quello che sta capitando tra mutui in netto calo, prezzi invece ancora fermi, ma soprattutto non c'è un beneficio di quello che è l'Euribor, quindi il tasso interbancario che verrebbe utilizzato per decidere la rata dei mutui a tasso variabile. Beh, l'Euribor è ai minimi da gennaio 2011 a livello europeo, i benefici in Italia non si vedono perché paghiamo lo spread, che resta anche oggi, adesso ve lo do, abbiate pazienza, che resta anche oggi alto, non altissimo, sempre sui livelli, diciamo, in cui viaggio da due settimane. Però dicevo, lo spread fa la differenza e quindi non c'è un beneficio per chi contrae un mutuo nell'avere un Euribor così basso, ripeto, ai minimi dal gennaio del 2011. E allora 349-238-6666 per gli sms e rapidamente le altre notizie in breve. Visto che parlavamo di borsa, diamo anche altri titoli. GDF Suez, meno 6,50 è il peggiore, Meridie più 17,55 è il migliore. Ma in realtà, per quello che riguarda l'andamento del listino principale, il Monte dei Paschi è il peggior titolo, meno 4,46, segue Ansaldo, CTS, meno 4,20, Popolare di Milano, meno 3,44, Mediaset, meno 3%, come il Banco Popolare e Impregilo, il 2,80 lo perde di Assorin e il 2,4 lo perde A2A, mentre Ferragamo è il migliore, è da questa mattina che è il migliore, più 3%, Fiat più 2,60, Fiat Industrial più 2,16, Popolare Emilia Romagna più 2, Tenaris più 1,80, Azimut più 1,70, Ubibanca più 1,60 come l'ottomatica, l'1,2 lo guadagna Exor e anche Buzzi Unicem, lo 0,90 e rialzo di Atlantia. L'euro è in leggero rafforzamento a quota 1,33,03, oro sempre 1734, petrolio in leggero rialzo a 99,4 dollari al barile, ancora in calo l'importazione di gas dalla Russia, meno 12% rispetto alle attese, ieri però c'è stata una frenata dei consumi di gas in Italia, ossia siamo scesi da 466 milioni di metri cubi dell'altro ieri ai 438 milioni di ieri. E il Ministero dello Sviluppo Economico fa sapere che l'emergenza continua, ma anche se la situazione migliora. E su questo è intervenuto anche il Ministro allo Sviluppo, Corrado Passera, che ha detto: è intollerabile l'immobilismo di alcune amministrazioni per le infrastrutture che producono gas. Ne parleremo più avanti, anche perché Passera è intervenuto anche sulle liberalizzazioni. Lo spread, volevate saperlo? Allora, siamo scesi a 344 punti. Questa è una ottima notizia, perché era da settembre che non si vedeva uno spread a 344. È chiaro che tutti lo rivogliamo al livello di giugno, prima che iniziasse l'intera escalation, chiamiamola così, sullo spread. Quindi a un livello intorno ai 220-230 punti. Però insomma 344 punti inizia a essere anche un livello interessante, ripeto, non ancora sufficiente, ma siamo tornati al livello di settembre. E poi la Banca d'Italia, nell'ambito delle decisioni assunte dall'Eurosistema e dalla Banca Centrale Europea, ha allargato i limiti messi alle banche italiane per i prestiti forniti in garanzia alle operazioni di credito, cioè sostanzialmente i cosiddetti collaterali che si danno alla Banca Centrale Europea per ottenere dalla Banca Centrale Europea i prestiti che la banca ha, 440 miliardi per 3 anni all'1%. Le banche, quando ottengono questi soldi, ricorderete la famosa manovra di Mario Draghi, danno un collaterale in garanzia. Ecco, la Banca d'Italia ha allargato i limiti precedentemente presenti. Nel frattempo, come dicevo, l'Euribor è sceso ai minimi dal gennaio del 2011, è in flessione da 36 giorni di fila l'Euribor, ed è la sequenza a ribasso più bassa dall'agosto del 2009. Però, e questo era il tema, è il tema che affronteremo nella seconda ora, le spese complessive per un mutuo in Italia, quindi comprendendo anche le spese accessorie, sono salite al 4,2% dal 3,9% di novembre. E questo è il paradosso: cala il costo del denaro a livello europeo, ma cresce il costo del mutuo per gli italiani. Sì, con un guadagno per le banche, questo è indubbio, non c'è niente da fare, si può girare come si vuole, ma è chiaro che se cala il tasso di finanziamento interbancario e aumentano le spese per il mutuo, la banca ci sta guadagnando. Tant'è che a gennaio la domanda di mutui è andata a picco, meno 44%. Di Obama parleremo e Mario Monti parleremo dopo, anche se, ripeto, l'incontro principale arriverà intorno alle 21 ore italiana, e quindi sarà notizia dei nostri GR di stasera e poi di domani mattina. Monti però in un'intervista al settimanale Time ha ricordato come c'è molto da fare in Italia per rimuovere gli impedimenti strutturali che frenano la crescita. Molti di questi impedimenti hanno a che fare con il potere eccessivo dei gruppi di interesse legati al potere pubblico. Gruppi di interesse legati al potere pubblico. E poi ha aggiunto: spero che riusciremo a cambiare il modo di vivere degli italiani, altrimenti le nostre riforme sarebbero effimere. E Time ha dedicato la copertina del nuovo numero dell'edizione asiatica ed europea proprio a Monti, che ha detto con un titolo: può salvare l'Europa. Ma siamo sempre al centro dell'attenzione, nel male prima, nel bene adesso. Gli elogi a Mario Draghi, gli elogi a Mario Monti, ma insomma l'Italia può giocarsela in Europa, perché se i destini dell'Europa dipendono da noi, forse anche con Bruxelles si può trattare, per esempio, su alcuni vincoli. Allora, scrivono un ascoltatore: entro febbraio lo spread tornerà a 500 punti. Vedremo se lei ne è convinto, va bene. Magari ci dica anche dove investe, così vediamo quale capacità predittiva ha. L'indice MIBTEL è invariato, meno 0,01% non è cosa. Parigi più 0,43% invece, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,40%. L'America invariata. Prima di partire con il vertice della Banca Centrale Europea e poi l'incontro a Bruxelles sulla Grecia, qualche altra notizia su cos'è questa crisi ce l'abbiamo anche oggi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, i controlli del fisco a Cortina, a Portofino, a Milano, stanno creando un vero e proprio boom di restituzioni delle auto di lusso. Praticamente c'è chi addirittura sostiene che ormai porta e tiene il 740 nel cruscotto, ma in realtà che cosa è successo? Parliamo di auto di super lusso, non l'auto di lusso media, parliamo di Lamborghini, Ferrari e quant'altro. Perché molti contribuenti, evidentemente con un po' di coda di paglia, perché la Lamborghini uno se la può permettere, se ha dichiarato al fisco quello che doveva, perché non la deve tenere? Vale per la Ferrari, vale per la Porsche, vale per la Maserati, però evidentemente c'è qualcuno che ha la coda di paglia o la coscienza sporca, perché iniziano ad aumentare il numero di cartelli, di annunci, vendola fuori serie per acquistare una meno appariscente. Non è solo questione di crisi economica, è proprio una questione di controllo del fisco, tant'è che da dicembre in una concessionaria alle porte di Milano, che vende Lamborghini, ammette il responsabile della concessionaria, da dicembre una trentina di proprietari, che sono tanti, 30 per Lamborghini, si sono presentati da noi chiedendo il ritiro dell'usato. In molti casi il motivo è stato proprio il timore di subire controlli approfonditi dal fisco. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? E poi invece la crisi vera e propria, non quella di chi ha la coscienza sporca perché è un evasore, diciamola tutta, dai, uno che va a vendere a Lamborghini perché teme i controlli del fisco, tendenzialmente un evasore, si può dire senza far arrabbiare gli ascoltatori, e se no uno se regolarmente l'ha immatricolata e dichiara cifre congrue, se la tiene la Lamborghini. Invece la crisi vera si fa sentire anche nell'arcipelago delle Eolie, dove si registra un boom di annunci, di vendite, di affitti mai registrato, quindi anche qui in tema immobiliare, chi volesse comprare casa o un esercizio commerciale alle Eolie lo sa. Ci sono anche alberghi a 4 stelle, più difficili da comprare quelli per un singolo privato, recentemente realizzati anche grazie al patto territoriale delle Eolie, finanziato dal Ministero delle Attività Produttive con oltre 50 milioni di euro. Pensate che sono oltre 500 gli immobili in vendita a Lipari e altri 500 si possono contare nelle restanti isole delle Eolie, compresi 3 comuni di Salina. Praticamente hanno chiuso i battenti diverse attività commerciali sul corso a Lipari e appunto dappertutto spuntano cartelli: affittasi, cedersi attività, vendersi villette e mini appartamenti. Questo è un suggerimento oltre che una constatazione per chi volesse fare un investimento. Adesso però ci spostiamo subito in Europa tassi di interesse fermi. Mario Draghi cautamente preoccupato o preoccupatamente ottimista, non saprei come definirlo. Ne parliamo subito. 349-238-6666. Dagli SMS. Non abbiamo discusso di una modifica dei tassi di interesse, ha detto Mario Draghi. L'inflazione sopra il 2% nei prossimi mesi poi andrà in calo. Il quarto trimestre dell'anno per l'area euro è stato debole, la ripresa sarà graduale. Ci sono segni di stabilizzazione, ma restano rischi. E poi continueremo a sostenere il credito alla finanza. Il mercato del lavoro deve essere meno rigido e più flessibile in tutta Europa. Possiamo gestire anche i rischi connessi a un ampliamento dei collaterali, cioè quello che le banche danno in garanzia per ottenere i prestiti della Banca Centrale Europea, e con il Fiscal Compact, quindi con quelle regole più stringenti sul bilancio dei vari stati, possiamo andare verso l'unione di bilancio a livello europeo, cambiando anche le costituzioni. Cioè, se ogni paese dell'area euro mette nella sua costituzione che non si può superare il deficit del 3%, che deve rientrare entro 20 anni sotto il 60% del debito, ecco, questo diventa praticamente armonizzare le politiche di bilancio a livello europeo. E poi una bacchettata alle banche, ha detto: le banche devono utilizzare i finanziamenti che noi come Banca Centrale Europea gli abbiamo concesso. Di questi 450 miliardi l'Italia ne ha prenotati, se non ricordo male, 114. Devono utilizzare questi finanziamenti perché non c'è biasimo da parte del mercato. Allora, ascoltiamo un passaggio dell'intervento in conferenza stampa proprio di Mario Draghi. Based on our regular economic and monetary analysis, sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Le informazioni disponibili da metà gennaio hanno confermato la nostra visione. L'inflazione probabilmente resterà sopra il 2% per alcuni mesi, prima di scendere sotto questa soglia. I dati disponibili confermano che ci sono tentativi di stabilizzazione dell'attività economica a livelli bassi, ma le prospettive restano soggette a un'elevata incertezza e a rischi di indebolimento. Il PIL del quarto trimestre 2011 con tutta probabilità segnerà una forte debolezza. Guardando avanti, ci aspettiamo che la ripresa dell'economia della zona euro sia molto graduale nel corso del 2012. Il livello molto basso dei tassi di interesse e tutte le misure prese per incentivare il giusto funzionamento del settore finanziario hanno sostenuto l'economia dell'area euro. Onestamente, non abbiamo discusso alcuna prospettiva di cambiamento della politica dei tassi di interesse. We frankly didn't discuss any perspective or current change in interest rates. We frankly didn't discuss any perspective or current change or change of current interest rate. In l'inglese di Mario Draghi, lo dico sempre, mi fa impazzire. Penso che, insomma, se anche Monti lo parla bene, ma ce ne sono pochi di rappresentanti istituzionali italiani che sappiano l'inglese così bene come Mario Draghi. Detto ciò, adesso torniamo su Draghi. Una risposta la devo dare a un ascoltatore che dice: se avere una Ferrari significa essere evasori, lei è il nuovo Fra Dolcino. Complimenti per la citazione molto colta. Fra Dolcino, leader dei dolciniani, eretici che uccidevano anche i vescovi accusati di simonia, predicavano il neopaperismo, poi li hanno bruciati tutti i dolciniani. Però guardi che la frase era un po' diversa, perché io non mi permetterei mai di dire una cavolata del genere. Abbiamo detto che chi restituisce a Lamborghini perché ha paura di essere beccato dal fisco, quello che dicono molti concessionari di Lamborghini e di Ferrari, evidentemente la coscienza sporca. Anzi, che bello avere una Lamborghini e una Ferrari e una Maserati, a patto che uno abbia dichiarato quello che guadagna. Tutto qui, ma ci mancherebbe. Ridarle indietro perché non vuoi controlli fiscali, beh, no, il sospetto ti viene. Che c'entra Fra Dolcino? E comunque non è che i vescovi allora fossero esenti da vari peccatucci, senza giustificare i dolciniani. Scrive un ascoltatore: viva Fra Dolcino, vabbè. Stiamo calmi. Né viva Fradolcino né viva gli evasori. Si può essere un paese normale con l'evasione che c'è nel resto d'Europa. L'evasione che c'è nel resto d'Europa. Alessandro Merli, corrispondente su 24 ore da Francoforte, buonasera. Buonasera a voi. Ottimo l'inglese di Draghi, eh? Molto buono, sì. Molto buono. Diciamo che non è per l'inglese che è stato scelto, no, ma ovviamente si fa capire. Oltretutto c'è una bella differenza rispetto a Trichet, il quale per essere un francese padroneggiava l'inglese perfettamente, con un accento modesto, però come tutti i francesi, quando non voleva rispondere a una domanda parlava per mezz'ora. Draghi semplicemente dice: a questo non rispondo. Ma insomma, Draghi quasi mi preoccupo per lui, perché il Financial Times, Lodi Sperticate, Le Monde, addirittura i tedeschi che non l'hanno digerito, qualcuno si ricorda Axel Weber che si è dimesso, ma insomma i tedeschi devono riconoscere che Draghi è meglio delle loro attese. Riconoscono anche che Draghi li ha un po' fregati. Io sono contento, perché se non avesse fatto quella manovra di liquidità alle banche, in questo momento non so che tipo di spread staremmo commentando. Però insomma, fa notizia a questo punto un articolo contro Draghi, ma non se ne vedono in giro. Ma diciamo che per quello che riguarda i tedeschi, citavi la questione tedesca, Draghi è stato molto attento fin dall'inizio a tenerseli buoni e quindi a ribadire che lui era nel solco della tradizione della Bundesbank, che comunque, come giustamente deve essere, il suo mandato è quello di fare la lotta all'inflazione. Si è messo subito dalla parte giusta con la signora Merkel e di lì è venuto tutto il resto. L'uomo è di una grande abilità diplomatica, oltre a parlare bene l'inglese. Allora, vedo alcuni messaggi, adesso rispondiamo anche a quello. Quant'è l'evasione nel resto d'Europa? La media dell'evasione nel resto d'Europa è la metà di quella italiana in proporzione al PIL, basterebbe arrivare a quello. Non occorre essere né dolciniani né massimalisti né manichei, basta avere un'evasione accettabile. Si può dire evasione accettabile? Secondo me sì. Draghi è più cautamente ottimista, non è un gioco di parole, o moderatamente pessimista? Cioè, ha detto: attenzione, la ripresa è lenta, è graduale, il quarto trimestre è debole, però ha anche detto: ci sono segnali di stabilizzazione e poi qualche bacchettata alle banche. Alessandro. Sì, ha detto, per quello che riguarda l'economia, diciamo che ha fatto un po' il seguito di quello che aveva detto il mese scorso, cioè ha detto: ci sono timidi segnali di stabilizzazione dell'attività a livelli bassi, però ha anche aggiunto stavolta che questi segnali si stanno intensificando, non sono più solo nei sondaggi fra gli operatori economici, i vari indici delle PMI, eccetera, ma cominciano a vedersi anche nei dati concreti dell'economia. E quindi c'è un piccolissimo passaggio in avanti. L'altra nota leggermente più ottimista di Draghi è che si è dichiarato diciamo meno pessimista del Fondo Monetario nelle sue previsioni sull'area dell'euro. Quindi diciamo non un ottimismo sperticato, ma una certa fiducia che l'attività possa riprendere gradualmente nel corso del 2012, soggetta naturalmente a tutte quelle condizioni che sappiamo, l'incertezza della crisi del debito sovrano, la possibilità di un boom dei prezzi delle commodities, l'indebolimento della domanda mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Draghi ha sottolineato più volte la questione dell'incertezza, però qualcosa si muove, seppure leggermente. Per quello che riguarda le banche, la bacchettata alle banche è una cosa molto specifica, perché l'altro giorno il chief executive della Deutsche Bank, Josef Ackermann, che è un banchiere che conta ovviamente in Germania e non solo, ha detto: ma noi non abbiamo partecipato a questa fornitura della liquidità della Banca Centrale Europea perché non ne avevamo bisogno, come dire, noi siamo più bravi degli altri, quindi quelli che partecipano hanno dei problemi che noi non abbiamo. Draghi lì è stato molto duro, perché ha detto addirittura, senza naturalmente citare né Ackermann né la Deutsche Bank né nessun altro, ha detto: beh, c'è chi fa sfoggio di virilità e di doti di machismo, però anche alcuni di quelli che in pubblico si sono dichiarati contro le nostre operazioni di fornitura di liquidità poi in realtà vi hanno partecipato. Non si sa se si riferisse a Ackermann o a qualcun altro, però la frase è stata abbastanza... Sì, stiano attenti i tedeschi, anche giusto. Perché la legge in Germania, il governo ha dato ampio aiuto alle banche, molto più che da noi, e se non ricordo male, prima dell'intervento della Banca Centrale Europea, quindi l'intervento da 450 miliardi di Mario Draghi, la voce più forte sul primo gruppo bancario che sarebbe saltato, bancario assicurativo in Europa, ce lo ricordiamo tutti, era Commerzbank, che fino a prova contraria resta in Germania. Comunque, Alessandro, di questo parliamo anche dopo il meteo e la pubblicità, perché vorrei ascoltare anche il passaggio di Mario Draghi sulla Grecia e poi dare anche qualche risposta agli ascoltatori. C'è chi scrive viva Dolcino, Valdo e Lutero, e vabbè, non esageriamo. E a chi dice dopo i peana per Monti, adesso i peana per Draghi. Ma scusate, ma una volta tanto che... Da quant'è che un italiano non guadagnava la copertina del Time, come ha fatto Mario Monti adesso? E che tutta la stampa anglosassone, francese, tedesca era a favore di un altro italiano come Mario Draghi? Ogni tanto si può anche festeggiare con la classe politica che abbiamo avuto in questi anni, no? Mario e Mario, forse... dopo Schettino qualche aiuto ce lo daranno, dai. Allora, Alessandro Merli, chiarito appunto che mi piace quando un italiano come Draghi riceve il plauso di tutta Europa e anche Monti, adesso per carità c'è anche l'effetto diciamo Fenice, venivamo da una situazione così difficile come immagine all'estero che Monti ha tra virgolette anche gioco facile. Però va dato atto di questa grandissima e delle volte anche sorprendente consenso che c'è dovunque. Vedo Monti che sta parlando dagli Stati Uniti, ma dove è arrivato oggi a un primo incontro tra poco meno di 20 minuti, magari se poi riusciamo anche a farlo. La svolta italiana che dal punto di vista economico, finanziario, incoraggia gli Stati Uniti che vedono nell'Italia un partner non solo storicamente vicino e alleato, ma che in questa fase può anche contribuire a dare più impulso all'Unione Europea e alla crescita con vantaggio generale per le due rive dell'Atlantico. Questa è la dichiarazione di Mario Monti prima della visita al congresso, poi nel pomeriggio, dopo pranzo, l'incontro con Barack Obama alla Casa Bianca. Alessandro Merli, la Grecia, ne ha parlato anche Mario Draghi in conferenza stampa, ascoltiamo questo passaggio. Tra l'altro Draghi ha un po' gelato alcune attese perché ha spiegato che il trattato europeo proibisce alla banca centrale di contribuire al piano di aiuti per la Grecia direttamente con i suoi fondi. Circa la Grecia, mi dispiace ma non ho nulla da dire sul trattamento dei bond greci comprati dall'Istituto Centrale. Posso invece dire che sono stato chiamato dal primo ministro greco, che mi ha riferito che è stato raggiunto un accordo, appoggiato dai principali partiti. Questo pomeriggio ci sarà l'Eurogruppo e avremo un resoconto completo sull'accordo e discuteremo le prossime mosse. La cosa più importante ora per la Grecia è avere un accordo e l'appoggio dei partiti. Questo è veramente il punto essenziale. Per alcune ragioni misteriose, l'attenzione è sempre sui sistemi di finanziamento o sui firewall, i sistemi di protezione. Credo invece che siano fondamentali le riforme che un paese adotta e ci si dovrebbe concentrare innanzitutto su questo e poi sul resto. Un secondo punto riguarda il coinvolgimento degli investitori privati della Grecia. Noi non siamo uno dei protagonisti del negoziato, ma la nostra sensazione è che le parti siano vicine ad un accordo. L'altro punto riguarda la BCE. Molti hanno parlato di quello che poteva o doveva fare la Banca Centrale. La BCE non ha fatto dichiarazioni e anche oggi l'unica cosa che posso dire è che non dirò nulla. Non è comunque nostra intenzione violare la regola di non finanziamento. It's not our intention to violate the monetary financing prohibition. Allora, Alessandro Merli, per concludere, sulla Grecia Draghi ha precisato, ma forse anche ha gelato alcune attese. Beh, no, Draghi ha detto sostanzialmente una cosa. Oggi pomeriggio c'è un Eurogruppo in cui i greci verranno a spiegarci cos'è questo accordo che hanno raggiunto fra di loro per le misure che devono prendere. Dopodiché l'Eurogruppo farà delle valutazioni su quello che c'è da fare a livello europeo a seguito di questo accordo, per quello che riguarda il prossimo pacchetto di aiuti che andrà dato alla Grecia, e quindi non vi dirò niente prima di questi appuntamenti. L'altra cosa interessante che ha detto è che la BCE non può accettare delle perdite sui titoli greci che ha comprato, perché sennò questo sarebbe finanziamento monetario del deficit greco, e questo per statuto la BCE e per trattato la BCE non lo può fare, però ha lasciato capire che la BCE potrebbe invece rinunciare a dei profitti, in quanto, come sappiamo, la BCE non ha comprato, come la maggior parte degli investitori, i titoli greci al loro valore nominale, ma li ha comprati quando già la crisi era scoppiata, quindi con uno sconto. A questo punto, invece di detenerli fino a scadenza e quindi riportare il 100% del valore nominale, potrebbe accettare di rivenderli allo stesso prezzo a cui li ha acquistati. In questo modo favorendo, a questo punto, diciamo. Però, in questo modo questa differenziale, questa cifra, in qualche modo, attraverso qualche giro, poi alla fine andrebbe a beneficiare i greci. Però naturalmente anche lì le modalità, ci sono un po' di tecnicismi dietro, nel senso che Draghi dice: se noi diamo questi bond, come si era detto nei giorni scorsi, c'era stato un articolo di Wall Street Journal, al fondo salva stati IFSF, il fondo salva stati IFSF di fatto sono ancora i governi europei, e quindi ricadiamo nel vizio di dare un finanziamento ai governi. Draghi ha lasciato capire che la cosa potrebbe essere fatta ridistribuendo questi profitti che la BCE si troverebbe a fare sui titoli greci fra i propri azionisti. I propri azionisti sono poi le banche centrali dei vari paesi, e quindi in qualche modo si troverebbe... Sì, insomma, un tecnicismo per non violare le regole del trattato, fornendo però una garanzia. Ma nella sostanza, una garanzia. Ecco, in qualche modo parteciperebbe a questo sostegno. Anche perché se compra le obbligazioni e le ridà allo stesso prezzo, dà un bel aiuto alla Grecia, perché insomma avere un compratore in questi casi parla di una cifra fra i 10 e i 15 miliardi di euro. Il Wall Street Journal ha detto 11. Insomma, comunque siamo in quell'ordine. Allora, io ringrazio Alessandro Melli in collegamento con noi da Francoforte, e tra pochissimo parleremo anche di Grecia. Poi la borsa che ha chiuso Milano oggi non è stata migliore rispetto al resto d'Europa, meno 0,09, meglio ha fatto Parigi, più 0,43%. Chiudiamola però sull'evasione, perché alcuni scrivono, devo dire che è una teoria, si chiama curva di Laffer, ma se le tasse fossero più basse in questo paese si pagherebbero di più. E altri aggiungono: sì, ma non è solo l'evasione essere doppia rispetto alla media europea, è anche il costo della pubblica amministrazione, gli sprechi, il costo della politica. Allora, sulla politica, sugli sprechi abbiamo detto mille volte, sul buco che la sanità crea grazie a quattro regioni, di cui tre al sud, abbiamo detto mille volte, tutto vero. Sulla curva di Laffer, ossia sull'idea che abbassando le tasse si pagherebbero più tasse, io mi permetto di far notare che questo vale nei paesi in cui il contribuente è un contribuente abbastanza onesto, per cui le paga quasi tutte. Se tu gli abbassi di 2-3 punti le tasse, è ancora più invogliato, libera risorse. Ma in un paese in cui continuiamo a scoprire evasori totali da 120 milioni di euro, da 14 appartamenti, anche oggi il caso di Cremona, se non ricordo male, ma insomma, cosa volete che freghi a un evasore totale se l'aliquota passa dal 43 al 40? Interesserà chi le paga sempre le tasse, questo sì, per far ripartire l'economia, ma uno che va del 100% al 90%, ma manco se gli elementi al 15% te le paga le tasse, è un evasore, compie un reato e va condannato. Allora, prima di arrivare alla borsa però, sentiamo anche cosa sta facendo la Grecia, non come borsa. Vittorio Darold, buonasera. Buonasera a voi. Sei un incubo ormai, eh? Sì. guarda, effettivamente ancora c'è ancora un giallo. Ma secondo me sei tu che protrai le trattative per riuscire a acquisire visibilità in radio, non lo so. È possibile. Allora, ce la fanno a fare questo accordo? Perché la Grecia ha bisogno di 130 miliardi entro due giorni, se no non riesce a fare l'operazione sullo swap di titoli in scadenza a inizio marzo. Sì, allora, come avete detto precedentemente, Mario Draghi proprio durante la conferenza stampa a Francoforte ha detto: ho appena parlato con il Premier, che tra parentesi è stato l'ex vicepresidente della BCE, Luca Papademos, e mi ha detto che l'accordo è fatto. Il problema è che sono subito sorte un piccolo giallo, un problema. Una fonte del governo tedesco ha detto che mancano i dettagli e subito dopo l'Eurogruppo, tra il presidente dell'Eurogruppo stesso, quindi Juncker, e il ministro delle finanze tedesco Schäuble, hanno detto che per oggi non ci sarà l'accordo perché hanno bisogno di maggiori dettagli. Che cosa è successo? La Troika aveva chiesto di tagliare fare delle misure di austerità, tra cui la più importante era la riduzione dello stipendio base del 22% e le pensioni. Le pensioni che in Grecia sono divise tra una base e una parte, diciamo. Vittorio, ti chiedo un minuto di pazienza perché siamo riusciti a raggiungere Mario Pratero, che sta seguendo i vari incontri di Mario Monti oggi a Washington e domani a New York, se ho ben capito. Mario, ci sei? Mario? Eccomi, sì. Ecco. Eccoci qui. È arrivato Monti? Sebastiano, eccoci qua. Sì, Mario Monti è arrivato qui all'Institute for International Economics e reduce da una visita in congresso dove si è incontrato col presidente della Camera Burr. Un incontro, devo dire, molto cordiale e simpatico, anche perché Bonner poi è una grande comunicativa, quindi e poi devo dire ha aiutato anche il fatto che qui è una splendida giornata di sole, tiepida, non c'è neanche bisogno del cappotto, e quindi adesso siamo qui all'Institute for International Economics di Fred Bergsten, uno dei più grandi economisti internazionali. Vedo che è appena arrivato Olivier Blanchard, che è il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, quindi Mario, ci puoi dire le tappe della giornata del Presidente del Consiglio a Washington? Ecco, sì, qui ci sarà un piccolo attito, si parlerà di economia, di situazione europea, di Grecia, d'Italia, dopodiché il Presidente del Consiglio andrà alla visita alla Casa Bianca verso le 3, subito dopo questo incontro ci sarà una colazione e poi il pezzo forte della giornata, il pezzo forte di questo viaggio, la visita, l'incontro con il Presidente Barack Obama, è la prima volta che i due si incontrano e devo dire un incontro che parte molto bene perché abbiamo visto dichiarazioni della Casa Bianca che già anticipano grande situazione, grande apprezzamento. E anche la copertina del Time. In termini di riforme. E anche la copertina del Time abbiamo visto. E anche la copertina del Time, ci sono una gran quantità di telecamere e devo dire c'è molta molta attenzione per questa visita. Sappiamo anche che c'è stata l'intervista con la PBS, l'intervista con il Wall Street Journal, insomma, molta molta attenzione. E dopodiché ci sarà una conferenza stampa in ambasciata e poi domani il viaggio a New York per la tappa finanziaria, a parlare con gli operatori, con i finanzieri, con i banchieri, convincerli che quello che si sta facendo in Italia non è un fatto episodico, ma stiamo in qualche modo cercando di fare un cambiamento strutturale. Ecco, certo. È questo il messaggio importante, credo voglia dare Monti, che non si sta facendo una cosa per poi tornare la prossima volta alle vecchie abitudini del passato. L'Italia sta cambiando e sta cambiando per sempre. Questo credo sia il allora, di fondo Mario, noi ci Monti porta in America. Noi ci risentiremo domani, adesso che Monti porti anche solo a Washington, arriviamo alla geografia. Sorge il sole, canta il gallo, diceva Malaparte, e poi alla fine la lascio a voi. E invece Vittorio Darold resta con noi, concludiamo la Grecia, poi la borsa e poi il mercato immobiliare. Una risposta rapidissima sul tema dell'evasione fiscale, delle tasse. Allora, non abbiamo mai detto che non serva abbassare le tasse, serve e servirebbe per liberare risorse in chi le tasse le paga e quindi soprattutto il cuneo fiscale, ma non solo, ci mancherebbe. E quindi far ripartire un po' la domanda interna, i consumi. Quello che è stato detto è che l'idea che se si abbassano le tasse gli evasori le pagano più volentieri, su certi livelli di evasione di cui l'Italia dopo la Grecia è leader, ahimè, in Europa, a mio avviso è un'idea sbagliata, perché quando tu hai evasori totali o evasori al 90% dell'imponibile, anche se gli abbassi di 3-4 punti percentuali l'aliquota, quello continua a evadere, perché non è un problema di non starci dentro, è un problema di reato e basta. Servirebbe, e come si servirebbe, abbassare le tasse per tutti quelli che le tasse le pagano tutte o quasi tutte. Secondo aspetto, d'accordissimo da sempre che occorre tagliare la spesa pubblica, non in senso assoluto, perché se noi andiamo a guardare la spesa sanitaria, la spesa per istruzione o per la sicurezza in Italia in percentuale al PIL non è più alta dei paesi europei, ma è improduttiva, cioè è spesa per stipendi, consulenze, anche mazzette, sprechi e corruzione, non è spesa produttiva. Ma su questo vedremo cosa farà il governo, ancora mi sembra che abbia fatto molto poco su questo fronte. Però Vittorio Darold, dici una cosa, quando è che non ti risentiremo più? Guarda, il problema è che oggi c'è ancora un giallo, sembrava ormai tutto in direttiva d'arrivo, invece subito dopo che la notizia appunto data in diretta da Draghi che c'era l'accordo ad Atene, sono arrivati i primi prudenti commenti proprio da Bruxelles, dove il presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto che l'accordo per il via libera al piano di 130 miliardi di aiuti può attendere. È una cosa sorprendente. Poi si è aggiunto appunto delle notizie da Berlino, delle fonti tedesche hanno aggiunto che mancano i dettagli importanti sul piano di austerità greco, che è naturalmente preliminare al fatto che ci siano i successivi aiuti. E a questo punto mancano proprio i tagli alle pensioni, sostituiti da non meglio precisati tagli alla difesa. Insomma, lo stallo si è trasferito da Atene a Bruxelles. Come vedete è veramente un problema che sembra non risolversi mai. Sì, anche perché, come tu ricordavi ieri, i tagli al pubblico impiego sono ben di là da venire, perché ne hanno fatti solo 1000 di dipendenti pubblici, dovrebbero arrivare a 15.000. Esattamente, il problema è proprio questo, cioè ci sono due problemi in Grecia, il taglio delle spese e poi ricostruire la forma delle cosiddette riforme strutturali che dovrebbero dare anche la possibilità di produrre a un costo migliore e soprattutto produrre qualcosa che sia appetibile sul mercato globale. Ed è proprio la contemporaneità di questi due elementi che rende le cose tutte complicate, senza contare che ci sono naturalmente altri scioperi, altre manifestazioni, tensione sociale e soprattutto anche il governo che perde pezzi, perché oggi si è dimesso il vice ministro del lavoro. Sì, devono tagliare 150.000 dipendenti pubblici entro il 2015, 15.000 entro il 2012, ma finora solo 1.000. Poi voglio dire, la Grecia ha un 25% di economia sommersa, da noi circa il 18%, le mazzette, che in greco si chiamano fakilaki, si mangiano l'8% del PIL e addirittura negli ospedali i pazienti pagano bustarelle pur di essere curati, manca quasi la metà dei 500 farmaci più utilizzati e tra l'altro su questo pensate che dietro il porto del Pireo c'è il più grande mercato clandestino di materiale raccolto dai cassonetti spazzatura, 1 euro per un paio di scarpe, 2 euro per un impermeabile, ma anche bicchieri, pentole, quadri e quant'altro. Vittorio Darold, mi sa che ci risentiremo anche domani, visto lo stallo sulla Grecia. Grazie intanto e adesso la borsa. Allora, la borsa invariata a Milano, poche notizie oggi, più 0,40 scusate Parigi, più 0,60 Francoforte, Londra più 0,33, l'America più 0,17%, Fiat più 2,90 e Ferragamo pure, Fiat Industrial più 2,40, i migliori titoli oggi sul mercato, bene anche Tenaris più 2% e anche il 2% rialzo della Popolare Emilia Romagna, Monte dei Paschi meno 5,12, Ansaldo meno 4,40, Banco Popolare meno 3,40, il 3,20 europea della Popolare di Milano, il 3% di Assorin e Mediaset. Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Monte dei Paschi da un lato e poi anche in pregiro. Sì, per quello che riguarda Monte dei Paschi ha ceduto in modo pesante oggi su alcuni rumor che sono circolate nelle sale operative, che dicevano sostanzialmente che la fondazione Monte dei Paschi stesse collocando azioni della banca sul mercato. La discrezione è stata smentita, ma ha comunque pesato sul titolo. Poi nel finale di seduta anche gli altri bancari, diciamo, con le incertezze di cui parlavate prima sulla Grecia, sono un po' venuti a ruota. Allora, dicevamo in pregiro meno 2,75%, Monte dei Paschi meno 5,12, anche Ansaldo oggi corregge pesantemente, meno 4,40%. Sì, Ansaldo oggi ha pubblicato i risultati preliminari sul 2011 e ha quindi annunciato una flessione sia sul fronte dei ricavi che sul fronte della marginalità. Solo i risultati sugli ordini vanno meglio rispetto al 2010, il mercato forse si attendeva a qualcosa di più e oggi il titolo ha pagato il 4,38%. A2A, le dimissioni di Zuccoli ieri avevano fatto impennare il titolo, oggi meno 2,40%. Mi sembra un po' di realizzi. Invece Ferragamo, qui continua il settore del lusso ad andare benissimo. Oggi ho visto i dati di Hermès e Hugo Boss, no? Sì, oggi i dati di Hermès e Hugo Boss hanno nuovamente contribuito a spingere i titoli del settore lusso. Ferragamo ne ha approfittato guadagnando il 2,89%. Il lusso, almeno dai dati dell'ultimo anno, sembra non aver conosciuto crisi. Le società hanno più volte rivisto al rialzo le stime e continuano a macinare sia ricavi che utili. Ancora Fiat, qui ci sono i conti di Daimler, no? Sì, Daimler oggi ha pubblicato i suoi conti sull'anno, sia gli utili che il fatturato hanno registrato dei record, la casa tedesca ha anche deciso di aumentare il dividendo e ha confermato che per il 2012 le prospettive sono molto positive, si attende vendite in sensibile aumento. Questo ha dato un po' di effervescenza a tutto il settore auto, con anche il DJ Stocks di settore che ha guadagnato il 3%, hanno guadagnato tutti i costruttori e Fiat si è mossa sostanzialmente a ruota. E infine negativo devo dire oggi anche di Assori meno 3%, la Pop Milano meno 3,20%, il Banco Popolare meno 3,41%, e in assoluto Meridie più 17,5%, Ergi Capital più 20,3%, i migliori titoli. Il peggior titolo Gas Plus meno 6,40%, GDF meno 6,50%. Per cento, grazie a Guido Marino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Dello spread abbiamo detto, avete ragione a far notare una cosa però, che la differenza tra il nostro spread, quindi tra quanto costi noi indebitarsi e quanto costi la Germania rispetto allo spread spagnolo, quanto costi la Spagna rispetto alla Germania, si è ridotto moltissimo. Pensate che nel periodo peggiore, cioè novembre, dicembre, viaggiava a 170-180 punti la differenza tra noi e la Spagna, adesso siamo a 30 punti. Lo spread italiano è tornato ai livelli più bassi da settembre, manca ancora della strada da fare, ma siamo a 344 punti contro i 540 di metà novembre. E adesso però parliamo di mercato immobiliare, lo facciamo con l'amministratore delegato di Gabetti, Gabetti Property Solution si chiama, che ieri ha approvato un nuovo piano strategico e anche l'aumento di capitale. Dottor Ugo Giordano, buonasera. Buonasera. Allora, voi siete passati come titolo in borsa, perché è quotata in borsa, dal livello del minimo storico dello scorso 10 gennaio, praticamente 4 centesimi di euro, adesso siete arrivati a 9 centesimi, un più 125%. Un grosso strappo l'avete avuto ieri in positivo dopo l'annuncio del piano strategico. Ricordo che Gabetti, oltre che essere quotato, capitalizza circa 28 milioni di euro, ha come principali azionisti la Coste SRL, appunto di Giancarlo Giordano, la famiglia Gabetti che ha un 15%, il gruppo Marcegaglia che ha un altro 15% e la SP che ha il 5,9%. La Coste di Giancarlo Giordano ha il 25,6%. 1600 agenzie che comprendono anche i marchi Grimaldi e Professione Casa. Dunque, avete avuto un periodo molto difficile. Il piano che avete annunciato ieri prevede anche un aumento di capitale, quindi la richiesta di liquidità al mercato. Allora, il piano che abbiamo approvato ieri prevede il ricorso al mercato per 32 milioni di euro, prevede che l'assemblea deleghi poi il consiglio di amministrazione per valutare se l'aumento di capitale sia in opzione e o riservato a soggetti istituzionali che intendono investire sull'azienda. E questo aumento è funzionale alla rinegoziazione dell'accordo con le banche, che prevede, per come è stato impostato, anche lo spin-off di tutta una serie di attività che ad oggi... Cioè la cessione, diciamo. Sì, diciamo uno spin-off e poi la cessione, quindi... Di attività che non sono di puri servizi come invece sono quelle del core del gruppo Gabetti. Allora, con questo piano voi dovreste arrivare al 2015 con un margine operativo lordo, quindi i guadagni prima degli interessi delle tasse a quanto? 14 milioni di euro. E il debito che attualmente è di 148 milioni? Il debito che attualmente c'è di 148 milioni, secondo il piano strategico, la posizione finanziaria netta alla data del 31-12-2015 dovrebbe attestarsi in un intorno, aspetta che glielo dico con precisione, 16 milioni e rotti, 16 milioni e 3. 16 milioni e 300 mila euro. Allora, che cosa, al di là di chiedere agli azionisti in opzione oppure... No, i 32 milioni di euro, che cosa cederete del vostro portafoglio? Diciamo? Andiamo a cedere quella parte di società che detengono investimenti immobiliari già realizzati e o in via di sviluppo e andiamo a cedere una parte di non performing loans, che quindi sono dei crediti su un sottostante di mutui erogati che la società ad oggi ha ancora in pancia come tipo di attività, perché fino agli anni 90 Gabetti erogava mutui per i clienti. Ma sono non performing loans, cioè sono crediti deteriorati perché difficilmente li riuscite a recuperare? Sono dei crediti che hanno ovviamente un sottostante immobiliare, perché afferiscono ai mutui erogati in precedenza, che stanno andando in cassa via via nel corso degli anni, ma che nulla hanno a che vedere con la vostra attività di servizi immobiliari. Quindi il risultato di questa separazione di attività è quello di rendere da un lato molto più leggibile l'attività di Gabetti come attività di pura società di servizi e quindi togliendo tutto quello che a ciò non afferisce, e dall'altro quello di sgravarla di tutta la parte di quel debito che invece afferisce alle operazioni immobiliari, che va a seguire gli asset immobiliari che vengono cedere. Ecco, vendere le vostre partecipazioni immobiliari, so che sembra quasi un'offesa per chi lo fa di lavoro, ma non rischi di essere un cattivo affare con questi prezzi? Tutto dipende dai valori di vendita e teniamo conto che, ripeto, su tutti gli immobili che vengono venduti c'è il debito allocato, quindi si tratta di riuscire a trovare un punto di equilibrio che consenta alla società di togliersi una quantità sufficiente di debito insieme a questi asset e rendere comunque cedibili gli asset per un acquirente terzo. Ecco, degli immobili che venderete c'è qualcosa, insomma, adesso non voglio sapere tutti i dettagli, ma qualche grande realizzazione? Non c'è niente di particolarmente grande, forse la realizzazione più grande è un complesso residenziale in Sardegna ad uso seconda casa, che è in gran parte già edificata e in minima parte ancora da sviluppare. Dove? Dove? In Sardegna, così? Vicino a Olbia. Allora, senta, dottor Giordano, a parte il fatto che Gabetti venda gli immobili in questo periodo, forse non è un ottimo affare, ma veniamo al mercato immobiliare vero e proprio. Perché in questi giorni stiamo osservando dati molto contrastanti, cioè... Da un lato c'è l'Euribor, il tasso interbancario con cui le banche si rifinanziano, quello che dovrebbe servire a calcolare poi il nostro mutuo, quello a tasso variabile, che è ai minimi dal gennaio 2011 all'1,07%, cioè continua a calare ogni giorno da 36 giorni di fila. Dall'altro però abbiamo un tasso di interesse medio praticato dalle banche italiane sui mutui, la fonte della Banca d'Italia, che continua a salire. Cioè dal 3,9 di novembre al 4,2 di dicembre, con un guadagno non da poco per le banche. E oggi il CRIF ha rilevato a gennaio un crollo della domanda di mutui, meno 44% rispetto a un anno prima. Ma insomma, com'è possibile che l'Euribor cali e invece il tasso praticato dalle banche, tutti i costi inclusi, continui a aumentare? L'Euribor è solo uno dei parametri nella richiesta di un mutuo, nell'erogazione di un mutuo, l'altro parametro è lo spread. Allora, in questo momento, complice la diciamo così, minor liquidità delle banche o la minor propensione delle banche ad erogare del credito, assistiamo a un ridursi del tasso Euribor e invece a una non riduzione dello spread che ogni singola banca applica, per cui il tasso per l'utilizzatore finale viene minimamente inciso dal ribasso dell'Euribor e invece risente in modo particolare dello spread che ogni singola banca applica, che normalmente è piuttosto consistente. Ecco, vedo anche molte domande al 349-238-6666 sul mercato immobiliare in senso stretto, e quindi lei ha fatto notare come in realtà l'Euribor cali, ma non calano, diciamo, i mutui praticati perché è alto lo spread. Qui c'è un guadagno da parte delle banche, ma ci porterebbe troppo lontano questo tema, e già molte volte l'abbiamo affrontato. Ma vorrei capire l'andamento che voi vedete dei prezzi del mercato immobiliare, com'è? Perché non c'è stato in questi anni di pesante crisi un crollo come in Spagna, come in Irlanda, non parliamo dell'America, del mercato immobiliare italiano, che era cresciuto un po' di meno. C'è stata sostanzialmente, da quello che abbiamo visto, una tenuta con un allungarsi del tempo della compravendita e forse un minor numero di compravendite, ma non un, come dire, insomma, chi non era obbligato a vendere ha preferito non vendere aspettando tempi migliori. Questa tendenza si protrarrà anche nel 2012? È ragionevole prevedere sì, perché esattamente come ha detto lei, in altri mercati c'è stata una maggior crescita dei valori nel tempo e quindi c'è stata una immediata reazione alla crisi che ha colpito tutti quanti con un riposizionamento dei prezzi al ribasso. In Italia, sul mercato italiano, non c'è stata questa crescita esponenziale in precedenza che ha invece riguardato altri mercati e conseguentemente non c'è stato un calo dei prezzi da pronto? Prego, prego. Ah, scusi, non ho sentito più. Non c'è stato conseguentemente un calo dei prezzi così come c'è stato sugli altri mercati. Il fatto che i prezzi non siano calati diciamo in modo importante ha comportato un'estensione dei tempi necessari per vendere gli immobili. Il che significa che le transazioni sono diminuite, i prezzi però hanno maggiormente tenuto. È ragionevole prevedere che la situazione che stavo dicendo, quella che c'è stata sì, tutto il 2011, tenda a protrarsi anche. Ma insomma, parliamo dei prezzi degli immobili. Voi vi attendete un calo, prezzi fermi, stagnazione dei prezzi? La domanda è generalizzata e ovviamente purtroppo non è per difendermi, ma la risposta non lo può essere. La domanda è generica, la domanda è sicuramente generica, diciamo grandi città. No, la risposta non lo può essere, io le dico che è ragionevole attendersi un calo dei prezzi sugli immobili che qualitativamente o per posizionamento o per tipologia non sono immobili appetibili in una fase di mercato che non è di spostata sulla domanda. È invece vero che tengono il prezzo e comunque continuano a transarsi gli immobili che qualitativamente, ho un'accezione ampia, quindi sia per localizzazione sia proprio per tipologia. Quindi centro, semicentro in primo luogo? Quelli in centro e in semicentro, quelli che per taglio, per tipologia incontrano più facilmente la richiesta. E il taglio cos'è? Il taglio più piccolo sempre? Cioè 180 metri quadri? Ragionevolmente sì. 100/80, non 180, vedevo la sorpresa di là dalla regia, non 180 metri quadri che siamo. Tra gli 80 e i 100 tra gli 80 metri e 100 metri quadri. E con un taglio interno che sia funzionale alla domanda, cioè non un 100 metri quadri con 50 metri quadri o 60 metri quadri di zona giorno e magari una camera da letto e un bagno, cioè ben distribuito esattamente. La differenza la fa questo, soprattutto anche sul nuovo nello sviluppo. Grazie all'amministratore delegato di Gabetti Ugo Giordano. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.